apagar. Una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Vi prometto che questa mattina ha qualche complessità a seguire questa trasmissione, ma sono sicuro che dopo pochi istanti che noi cominceremo a carezzare l'argomento, ognuno troverà spunti per la propria personale vicenda, per la propria avventura, per le proprie angosce, per i propri pensieri. Molte volte noi trattiamo argomenti inerenti ai rapporti sociali, alle relazioni, al mondo del lavoro, al tedio, all'angoscia, all'osservare il tempo, a rimpiangere il tempo passato, a castrarsi ogni speranza e ogni brillante idea per il futuro, perché tanto non vale la pena, tanto ormai il mondo va così, tanto ormai il mondo è fatto soltanto delle persone forti, tanto ormai si soccombe, tanto ormai il mondo è così fortemente intriso da una classe feroce, potente, di radicali, esperti, raffinati, leccaculo, per cui noi non abbiamo più possibilità di esistere. Beh, tutto questo se lo pose un personaggio della fantasia, come naturalmente lo è ogni personaggio, la fantasia fortemente ispirato a categorie umane esistenti, un certo pomeriggio che passeggiando per un certo viottolo incontrò certe persone. Signor Curato. Cosa comanda? Lei ha intenzione di maritar domani Renzo Tramaglino e Lucia Mondella. Cioè, loro signori sono uomini di mondo e sanno come vanno queste faccende. Il povero Curato non c'entra. Don Abbondio non era nato con un cuor di leone, ma fin dai primi suoi anni aveva dovuto comprendere che la peggior condizione a quei tempi era quella di un animale senza artigli e senza zanne, e che pure non si sentisse inclinazione d'essere divorato. La forza legale non proteggeva in alcun conto l'uomo tranquillo, inoffensivo e che non avesse altri mezzi di far paura. Il nostro Abbondio, non nobile, non ricco, coraggioso ancor meno, s'era dunque accorto d'essere in quella società come un vaso di terracotta costretto a viaggiare in compagnia di molti vasi di ferro. Tutti noi abbiamo letto, riletto, declamato, riflettuto, analizzato la persona di Don Abbondio, perlomeno noi che abbiamo fatto studi regolari. Non so quanto oggi I Promessi Sposi faccia parte in realtà del corredo scolastico obbligatorio. Comunque molto riflettemmo su questa figura di Don Abbondio, in fondo la più ridicola, quella degna del maggior dileggio, un essere senza artigli, un vaso di coccio in mezzo a tanti vasi di metallo. Però un agnello che non ha proprio voglia di soccombere, non ha voglia di essere divorato, e quindi deve costruirsi una sua possibilità di vita, di sopravvivenza attraverso i miseri strumenti che la sua natura di pusillanime, ma allo stesso tempo non di vittima sacrificale predestinata, gli porta a mettere in atto. 800240024, noi partiamo proprio questa mattina da quanto ci si possa sentire Don Abbondio. Mi rendo conto, nessuno ammette di essere un Don Abbondio, nessuno di noi riuscirebbe mai ad associare se stesso a questa figura miserrima, ma figura essenziale. Se non ci fosse stato Don Abbondio non ci sarebbe stata più la l'epica storia di Renzo e Lucia. Don Abbondio è stata la causa necessaria per cui altri prendessero coraggio, altri muovessero la storia, eppure i Don Abbondi, Reietti Don Abbondi, oggi trovano una loro meravigliosa ragione di esistere, proprio in quell'arte di non avere artigli, probabilmente, ma di avere una capace, sensibile e sinuosa lingua pronta all'uso. Il suo sistema consisteva principalmente nello scansar tutti i contrasti e nel cedere in quelli che non poteva scansare. Neutralità disarmata in tutte le guerre che scoppiavano intorno a lui. Se si trovava assolutamente costretto a prender parte tra due contendenti, stava col più forte, sempre però alla retroguardia e procurando di far vedere all'altro che non gli era volontariamente nemico. Pareva che gli dicesse: «Ma perché non avete saputo essere voi il più forte? Ch'io mi sarei messo dalla vostra parte». Oggi con me a parlare del coraggio di Don Abbondio è Pierluigi Celli. Pierluigi Celli, buongiorno. Buongiorno. Pierluigi Celli è stato direttore generale della RAI, anche mio direttore generale, quindi mi prenderò l'ardire questa mattina e darmi con lui del tu, perché è stato il mio direttore, a cui devo anche molto. Attualmente direttore generale della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Luis Guido Carli. Ha scritto un particolare saggio che non è ascrivibile, così almeno ha detto chi ne ha fatto la critica, a nessun genere letterario. È Il coraggio di Don Abbondio, l'arte di arrendersi e il rischio di resistere in un paese che sta perdendo l'onore. Editore Aliberti. Per Luigi Celli un libro non ascrivibile a nessun genere già parte come un libro degenerato. Tu che consideri Il coraggio di Don Abbondio come una delle qualità oggi più usate o perlomeno più usabili, tu che hai insegnato tecnica aziendale, sei stato anche capo del personale, Rai, mi ricordo le tue lezioni su come deve essere l'organizzazione delle risorse umane. Ecco, quanto il lessico aziendale, che in questo libro chiami lessico trappola, sia una maniera per annebbiare le idee, partendo proprio da quello che ci ha unito professionalmente, per annebbiare le idee e allevare tanti Don Abbondio. Ma credo che le imprese, là dove non fanno esattamente quello che devono fare, oppure là dove in qualche modo si adeguano a parametri molto generali, generici di sopravvivenza, alla fine abilitano le persone che stanno dentro a comportarsi in maniera uniforme, omogenea, suddita sostanzialmente. Non è solo tanto le imprese, come dire, che hanno uno scopo economico evidente, molte volte sono le istituzioni, molte volte sono le associazioni, molte volte sono quei cammini che in qualche modo portano alla politica, laddove la politica è un modo come un altro di promuovere quelli che non daranno fastidio. Quindi si è sviluppata, è cresciuta senza che nessuno se ne accorgesse, da una parte tutti si sono preoccupati del laicismo imperante, da altre parti del pensiero fondamentalista, ma la vera religione è l'aziendalese che pian piano ha corroborato e permesso di sopravvivere tanti Don Abbondio. Ma guardi, le imprese in realtà, quelle che stanno sul mercato in maniera viva, quelle che competono, non hanno bisogno e non allevano dei Don Abbondio di solito. Il problema è sono quelle imprese che quindi, vivono ai margini del mercato, sono quelle imprese che in qualche modo hanno delle rendite di posizione, sono quelle imprese che sono protette, che in qualche modo abilitano al vertice persone che in qualche modo devono rispetto e riconoscenza a qualche altro, e sotto dei Don Abbondio, perché tutto sommato adeguarsi è quello che rende. Questo libro è fatto di vari generi letterari messi insieme, c'è la narrativa, c'è delle pièce teatrali, ci sono degli aforismi. Questa mattina, venendo qui a lavorare, in particolare mi è venuto in mente uno. Vediamo se dal particolare, dalla lettura e dall'osservazione poi si può risalire alle radici del male. Io tutte le mattine esco dalla metropolitana di Piazza della Repubblica. È un paio di mattine che una delle due scale mobili, che sono ripidissime, che portano verso il cielo aperto, è bloccata. È presa normalmente da quei frenetici nevrotici che la mattina nelle scale mobili camminano, fanno una gran fatica, non so perché, io ho calcolato, ci vuole lo stesso tempo. Questa mattina finalmente, dico oggi, l'avranno aggiustata. In realtà l'operazione è stata di mettere una transenna per invitare le persone a salire. Tu un giorno stavi su un aereo all'Italia e hai osservato le facce disperate, imbarazzate delle persone che volevano trasformare sotto una clausola tecnica banalissima il fatto che non funzionasse la scaletta per scendere dall'aereo, e ti ha fatto riflettere. Sì, il problema è che c'è sempre la tecnologia ha questo di bello, che ti può risolvere la vita e te la può bloccare, ma te la blocca nella misura in cui, come dire, le altre condizioni al contorno non sono state adeguatamente uniformate al fatto che ci sono delle tecnologie che possono funzionare e possono anche non funzionare. In realtà quello che fa funzionare la tecnologia sono gli uomini, e quello che fa funzionare gli uomini è la tecnologia, quindi c'è uno scambio assolutamente rilevante da tutte e due le parti. Se gli uomini non funzionano, cioè se il pensiero diventa un pensiero immediatamente e unicamente produttivo, quindi volto all'obiettivo, e se questo pensiero produttivo non è alimentato e supportato, in realtà si blocca tutto, si bloccano gli uomini e si blocca la tecnologia. perché in realtà viene a mancare il pensiero di retroguardia, che è il pensiero più antico e più, come dire, di livello superiore, che è il pensiero critico, cioè il pensiero pensante. Quindi è un segnale d'allarme: quando le tecnologie cominciano ad avere delle situazioni fallaci, vuol dire che l'umano che sta collegato direttamente con la tecnologia ha qualcosa in sé che non funziona. Ha qualcosa che non funziona. Fra i tanti spilli che è scritto, che sono dei brevi aforismi, ne leggo uno perché mi ha fatto riflettere, e vediamo di cosa secondo te è testimone, perlomeno di cosa è metafora. Era arrivato il momento del congedo. Avrebbe voluto che ci fosse silenzio. Non si esce di scena strepitando. Vorrei solo raccomandarvi il mio successore, disse, ma con pudore. Ci aveva messo del tempo a prepararlo. Non avrebbe voluto fare brutta figura. Ecco tutto. Gli risposero che ci sarebbe stato tempo per decidere. Chi resta le sue responsabilità. Chi esce si dia pace. Se n'è andato con un po' di amaro. Aver lottato una vita per non sapere chi avrebbe vinto. Ebbe l'impressione di non aver capito e non riuscì a farsene una ragione. Ahimè, il momento del passaggio del testimone è dolorosissimo e sembra per alcune persone improcrastinabile, per altre invece rimandato a tempo indeterminato. Ma il momento dell'uscita di scena è certamente il momento più drammatico, perché è quello che qualifica anche tutto il resto della tua vita. Questo è un vecchio dirigente che se ne va, viene segato, fatto fuori. Un vecchio dirigente che se ne va. Giovane, è un dirigente. Sì, che però è uno di quelli che tutto sommato ci ha messo, come dire, della passione alla sua vita, perché si è preparato il successore. Senza sapere che un molto... folle oggi nelle regole dello sciacallismo aziendale. Sì, è un folle o dire, qualcuno che non ha capito le regole del gioco. Nel senso che oggi prepararsi un successore può avvenire solo laddove le aziende, come dire, sono orientate a competere sul mercato in forma a viso aperto. Siccome molte del nostro paese non sono in queste condizioni, allora il successore, come dire, te lo sceglie qualche altro, te lo sceglie chi rimane. Inevitabilmente ha altre logiche, probabilmente vuol cambiare clima, vuol cambiare modalità di azione. Non è bello preoccuparsi del proprio futuro quando il futuro appartiene ad altri. Soprattutto oggi è imperante il complesso di Urano, mangiare tutte le persone che potrebbero avere aspirazione a farci ombra, questo nelle regole prime, oppure la regola del panino che mi insegnarono quando comincerai a occuparmi di gestione, devi fargli il panino a quello, che significa? Tu gli stai sopra, gli metti uno tuo sotto, così lo schiacci. Ma come diceva Riascanetti, la sostanza del potere è la minaccia da una parte. E il potere è vero, si esercita nella sopravvivenza, cioè tu puoi sopravvivere nella misura in cui allontani da te tutti quelli che ti possono in qualche modo fare ombra o in qualche modo creare pericolo. Da questo punto di vista credo che il problema vero sia a levarsi dei mediocri, perché questi non ti daranno mai problemi. Sentiamo Roberto. Roberto, buongiorno. Eccomi qua. Io sono un direttore generale di un'azienda americana, divento un po' matto. Il grande problema è la cultura aziendale, nel senso che la gente non fa più cultura perché è presa dal voler dare risultato. Il risultato è un effetto immediato per salvare la poltrona. Creare cultura è un processo di crescita che si fa tutti i giorni con l'esempio. Quindi per avere il risultato si usa il napalm, che sia il risultato immediato, non è detto che si vinca la guerra. No, significa anche truccare i dati in mano. Nelle grandi aziende i risultati sono spesso dei reporter, dei rapportini, dei bilanci, e basta poco per modificarli, punto. Questo deve essere chiaro. Le letture dei bilanci spesso sono arbitrarie. Ma il problema di base è che si è persa la cultura aziendale. Oggi non c'è più un'azienda che nasce con una missione. Ci sono le corporate, che sono magari 800 aziende che fanno parte di un gruppo. Ecco, questo come... manager... Sì, prego. Sì, no, volevo... per far capire anche al pubblico e dare spunti metaforici. Don Abbondio dove lo vede spalmato in questa sua lettura? Guardi, ripeto, io sto vivendo questo momento, nel senso che sto gestendo un passaggio. Siamo ricchi di Don Abbondio, ma Don Abbondio nel privato va bene. Nel pubblico è colui che si approfitta di una posizione, mette amici degli amici e si crea un finto potere che è dell'inefficienza. Il grande problema delle aziende sono quelli bravi. Finché sei mediocre, va benissimo, perché sei gestibile. E quando tu hai un capro mediocre, metterà una serie di mediocri nei punti cardini per dimostrare all'azienda, alla corpo, che comunque è la colpa del mercato, della concorrenza, che lui ha fatto il massimo. La competizione nelle aziende, la meritocrazia, credetemi, è vista molto male. Sono più facili da gestire i mediocri, gli incapaci e non i capaci. Fermiamoci qua, Roberto, fermiamoci solo un attimo, voglio dare a Pierluigi Celli modo di rispondere. Quindi questo nostro ascoltatore ha cominciato già a centrare il problema. Invece che sentirsi dire, come sentivo dire da mia madre ogni mattina uscendo di casa, mi raccomando, fai bene, fai il bene le tue cose, studia bene, fai tutto, io mi sento dire da mia moglie, oggi non strafare, cerca di non strafare. E alla luce di quello che dice Roberto, Pierluigi Celli. Ma dunque, ci sono molte cose che sono vere in quello che ha detto. In realtà, se noi partiamo dal presupposto che le idee sono pericolose, chi in qualche modo coltiva idee ed esprime idee lo fa a suo rischio e pericolo in un contesto come il nostro, perché le regole generali del gioco oggi sono che più stai quieto meglio probabilmente ti va, ma è una cultura un po', come dire, una cultura un po' generale, quindi una cultura molto sfilacciata, una cultura molto ridotta, che paradossalmente però, come dire, è una cultura rispetto alla quale i più giovani non hanno così intenzione come noi di rassegnarsi. Io credo che ci sia uno spazio di reazione proprio nell'allevamento dei più giovani rispetto a questa cosa. Rassegnarsi è un tema generale che andrebbe esaminato. In fondo Don Abbondio era un rassegnato, si era rassegnato alla forza e quindi tendeva ad acquietarsi in una posizione che non desse fastidio. È vero che in azienda molto spesso se non dai fastidio sei premiato, però è anche vero che non dando fastidio, allevando gente che non dà fastidio, l'azienda non va molto lontano. Nel tuo libro parli di ambivalenza del talento. Il discorso talento è molto legato non tanto al darsi da fare, ma nel rappresentare un'eccellenza. Rappresentare un'eccellenza però significa entrare in questa zona pericolosa e rossa in cui può diventare bersaglio di quelli che di fronte all'eccellenza non sanno come gestirla. Come si esce da questa equazione? Ma il talento pone un problema di questo tipo. Da una parte tu lo selezioni e gli fai fare un cammino che è preferenziale e autonomo, così facendo in qualche modo lo isoli dal contesto. Dall'altra parte il talento, se non lo sai usare, alla fine lo sprechi. Allora, c'è un problema molto, molto generale nelle aziende, e nelle organizzazioni in generale, non solo nelle aziende, che è questo. La vittoria o la sconfitta non è mai un fatto individuale e non è mai un fatto limitato a pochi. Allora, in realtà le aziende che in qualche modo hanno prospettiva di sviluppo futuro sono aziende in cui il gruppo viene portato avanti, e nel gruppo ci sono tutti, ci sono i talenti, ci sono quelli che sono un pochino meno intelligenti, ci sono quelli che hanno meno capacità, eccetera eccetera. Cioè l'azienda non è fatta solo di centravanti, l'azienda è fatta anche di mediani. Allora l'azienda che vince è quella che sta a tenere dentro tutto, valorizzando ognuno per il talento che ha, siccome ognuno di noi ha talento. E quindi ognuno di noi è un talento, per quanto limitato ad alcune aree. L'illusione sarebbe quella dei corpi speciali, di fare, che ne so, i samurai delle aziende. Il problema dei corpi speciali che molte aziende hanno messo in piedi è duplice. Primo, una volta finita la missione speciale, il corpo speciale entra in crisi nera. Diventano veterani, ingestibili. Diventano ingestibili perché non hanno più l'oggetto a cui applicare la loro forza. E poi molto spesso le aziende, come dire, mirano un obiettivo, poi lo cambiano improvvisamente. Sono dei coitus interruptus terribili, e la gestione del coitus interruptus è veramente complicata in azienda. Poi il veterano che non ha più un campo di battaglia fa sempre i lavori sporchi, poi alla fine sono quelli che poi, almeno nella fantascienza e nei film di guerra, sono quelli che poi vanno a fare i lavori sporchissimi, diventano malfattori o spacciatori o altre cose. C'è il problema della legione straniera. Claudio, buongiorno. Buongiorno, brevemente volevo portarle una mia esperienza. Lei è stato segato? Sì, segatissimo. Posso raccontare? Certo, siamo qui. Se parliamo di Don Abbondio, parliamo di segature. Niente, ho iniziato a fare un lavoro nel commerciale tardi, cioè intorno ai 37-38 anni, e a un certo punto ho avuto un'evoluzione di vendite spaventose, no? le mie motivazioni, le mie qualità all'interno di un'azienda privata. Questo poi insieme al padre è arrivato il figlio, una gran patacca fra virgolette, e questi numeri praticamente mi hanno portato ad avere un atteggiamento mio, era non mi gestisci, no? Io ti porto numeri e questi sono, insomma. E sono stato segato, nel senso ti rendo la vita impossibile, ma la frase storia è stata il figlio che mi ha detto eri diventato troppo bravo per stare con noi, ecco, questo mi è rimasto impresso questa frase. Ma lei non portava profitto alla sua azienda? Non portavo conflitto, ma non mi adeguavo a quelle che erano, come posso dirle, dei comandamenti che non mi appartenevano, nel senso che il mio lavoro era portare numeri, io ne producevo in maniera, come posso dirle, davvero interessante, e pensavo che questo fosse l'elemento... È un'azienda privata? Esatto, privata. Quindi erano i soldi loro alla fine? Esatto, e questo è il paradosso ancora più grande, è che effettivamente anche di fronte a degli utili praticamente, quindi sono andato a chiedere aumenti di stipendio chiaramente in base a quello... Ah beh, lei è andato a chiedere, dice io porto... No, sono andato anche a chiedere, certo, ma di là questo, la cosa è che neanche nel privato, laddove poi il dipendente diventa, lo dico io, quindi ci può credere o no, diventa addirittura quel figlio, il titolare non ha avuto... E lì subentrano delle dinamiche pazzesche. Pierlucelli, velocemente poi diamo la linea alla borsa. In aziende e nelle organizzazioni una delle dinamiche più rilevanti è quella legata a sentimenti di gelosia e di invidia, che sono sentimenti potentissimi e negativi. Tra l'altro sono gli unici due vizi capitali che non danno soddisfazione. L'invidia sì. Sì, cioè in realtà ci sono un sacco di vizi che ti danno soddisfazione. La gola, la lussuria, non ne parliamo. Cioè sono vizi, tutto sommato... Anche l'accidia è bella. Cioè pecchi, ma almeno godi. Nell'invidia e nella gelosia. Tu in realtà soffri perché ti maceri all'interno pensando che le cose che succedono a un altro in realtà avrebbero dovuto succedere a te. Quindi vanno a scapito anche del profitto, che sembra la ragione d'esistere di un'azienda. Vanno a scapito del profitto e disarticolano le organizzazioni. Grazie per Luigi Celli. (800) 24 0024, stiamo parlando questa mattina del coraggio di un Abbondio, l'arte di arrendersi e il rischio di resistere in un paese che sta perdendo l'onore. Aliberti Editore, libro di Pierluigi Celli, che è direttore generale della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, Luis Guido Carli. Stiamo ricevendo telefonate dai nostri ascoltatori sulla possibilità di ridare vita a questa metafora di un Abbondio, colui che non si sente di avere gli strumenti di forza, di intrepidezza, di coraggio, di invulnerabilità per stare al passo con il mondo che vorrebbe schiacciarlo, e quindi cerca in qualche maniera, un po' vigliaccamento, un po' blandendo, un po' eludendo, un po' sfuggendo, a sopravvivere. Pare che, secondo quello che stiamo osservando, che siano delle caratteristiche di sopravvivenza talmente radicate nella realtà, ma soprattutto la realtà aziendale cui stiamo parlando adesso, che sembrano aver dato quasi una conformazione, uno status, una nuova religione alla società. Mario, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie di avermi ammesso in trasmissione. Io faccio il Don Abbondio adesso, mica, cioè, è un'ordalia. Un minimo di cortesia. Ci fa piacere. Senta, avevate detto delle cose molto interessanti e mi sembra che non sono state sottolineate abbastanza. Le sottolineo. Sul meccanismo per il quale questa società, sia aziendale che organizzativa in generale, crea Don Abbondi e li antiseleziona proprio oramai con regolarità. E cioè, avete detto che è stato detto da un ascoltatore, mi sembra che sono i bilancini provvisori che vengono presentati e facilmente resi leggibili in modi diversi dalla realtà, ma soprattutto che queste corporate sono oramai fatte da pletore di aziende più o meno raggruppate. È difficile oramai trovare il padre e il figlio, col figlio che crea problemi come nel caso del secondo ascoltatore. Cosa voglio dire? Che la durata degli incarichi degli amministratori della singola azienda, che prevedono i loro 2-3 anni sperando poi di fare il balzo nell'azienda un po' più grande o cambiando l'incarico da amministratore delegato a presidente, eccetera, cosa comporta? Un'ottica di brevissimo periodo, per cui la realtà aziendale non interessa a nessuno, interessano soltanto i bilancini di un anno o due utili per fare il salto poi in un'azienda più grossa o un incarico più prestigioso. Quindi è saltare su un guado di sasso in sasso senza preoccuparsi un attimo di cosa passa sotto. Assolutamente sì, e questo ho avuto delle esperienze personali di grandi realtà che ovviamente non posso nominare, aziendali italiane, dove pur di fare il salto da una parte all'altra l'azienda può pure andare al diavolo purché nei prossimi anno o due si presenti dei bilanci interessanti. Ma Pierluigi Celli, questo tipo di modalità è assimilabile a un Don Abbondio? Don Abbondio così ardito di fare salti non ce lo vedo tanto. Ma si può saltare in tanti modi. Si può saltare perché si ha la forza nelle gambe e si può saltare perché ci si aggancia a qualcuno che sta saltando, no? Il Don Abbondio in genere si aggancia a qualcuno che sta saltando, che qualcuno che lo trasporta da una parte e dall'altra, oppure uno sceglie l'onda e quindi in qualche modo si adegua a queste cose. Quindi è una caratteristica del Don Abbondio che stiamo valutando, quella del salto del guado e non fermarsi mai a dare valore all'ambiente in cui ci si trova. Cioè, i Don Abbondio sono di varia natura. Se noi ci limitiamo al Don Abbondio dei Promessi Sposi, aveva una caratteristica molto particolare: era uno che stava quieto nella sua parrocchietta e quindi ossequioso di tutti i poteri possibili e in ogni caso tendendo a non venire disturbato, a non venire in qualche modo provocato più di tanto, che è un modo in cui si può stare in un'azienda, nel senso di non muoversi molto a quel punto, no? Uno prende la sua cuccia, prende il suo angolo, fa il suo mestiere in maniera tale che da non sollevare problemi e tende a difendersi in qualche modo. C'è anche invece il Don Abbondio che pur non avendo coraggio ha aspirazioni e quindi deve trovare il modo di soddisfare le sue aspirazioni, quindi di dare seguito alle sue aspirazioni non avendo il coraggio di difendere per esempio le sue idee o i suoi punti di vista. A quel punto deve trovare il canale e noi siamo abilissimi di trovare i canali. Sentiamo Costantino. Costantino. Ah, buongiorno. Innanzitutto lei è simpaticissimo e mi piace perché mette tutti al proprio posto. Vorrei essere velocissimo. Io ho fatto 25 anni di aziende e adesso sono autonomo. E se posso le racconto, sono d'accordo col signore di prima che diceva appunto dei passaggi da un posto all'altro, anche se io stesso le dico molte volte si fugge, cioè si lascia un'azienda e si va in un'altra perché magari si pensa di trovare una situazione migliore. Allora, beh, certo, solo posso... i masochisti vanno a star peggio. Esatto, però se posso le racconto un episodio velocissimo di un minuto. Io sono stato in un'azienda dove ho interrotto io il periodo di prova perché non mi piaceva assolutamente. L'amministratore delegato di questa azienda mi disse: io le auguro che le vada male, e ho capito che lei è ancora uno di quegli ingenui che pensa che si vada avanti per i propri meriti, non ha capito che si va avanti per i demeriti degli altri, e quindi nell'augurarmi male, vabbè, fra l'altro poi dopo 4 giorni vinsi al Totocalcio, però non gli telefonai per dirgli. Ho saputo che questa persona, che era un killer, è stato poi segato lui, quindi in tutte le aziende secondo me ci sono delle situazioni dove si può andare avanti, come nel mio caso, finché io sono stato tecnico, cioè ho lavorato con soddisfazione, mi occupavo di computer eccetera, sono andato bene, però quando ho cominciato a dover gestire problemi di altri eccetera e rispondere anche di altre persone, sono cominciati i problemi. È il grande passaggio da chi sviluppa un talento l'azienda e si occupa di gestione, a questo punto deve diventare un monaco secondo l'azienda, abbandonare ogni velleità di emergere o di darsi da fare sul suo talento, ma occuparsi di talenti altrui, e qua cominciano i problemi. Iuri, così sentiamo tutti, poi Pierluigi Celli in modo di dare un parere complessivo. Iuri. Dottor Nicoletti, buongiorno. Buongiorno. Faccio i complimenti per la trasmissione, questa mattina è particolarmente brillante. Io chissà per perché. Due volte sono stato perché è molto interessante il tema che sta trattando. Io per ben due volte mi sono trovato nella situazione, diciamo così, di dover lasciare delle aziende per evitare di essere segato. Nel senso che... guarda che le aziende, prima di segarti, dicono: se ti seghi da solo magari ti fai meno male, questo è un gioco forza, se no ti seghiamo noi è anche peggio, e uno decide se è meglio farsi segare o autosegarsi, questo di solito capita. Delle volte io penso che sia preferibile autosegarsi perché si ha sempre la capacità poi di avere i tempi di reazione giusti per potersi ricollocare. E lei che ha fatto? Si è autosegato? Per ben due volte mi sono autosegato, è andata così. Le volevo dire una cosa, riallacciandomi a quello che ha detto un suo un suo ascoltatore precedentemente, circa l'invidia che si sviluppa all'interno delle aziende anche quando le aziende hanno una componente familiare. Potrebbe sembrare qualcosa di paradossale, ma le dico che effettivamente avviene così e si vive nella situazione altrettanto paradossale di essere tra virgolette formati dall'azienda nel portare i numeri, e quando poi si è addestrati dall'azienda nel conseguire fatturati e successi si vengono a creare delle situazioni dove chiaramente il responsabile commerciale di turno o il direttore commerciale chiede all'azienda ulteriori investimenti per poter proseguire nel proprio cammino, fatto anche di soddisfazioni personali, e lì ci si trova di fronte a volte a imprenditori che per non aiutare, chiamiamolo così, il successo del proprio collaboratore, prezioso collaboratore, preferiscono essere masochisti con se stessi e con la propria azienda. Fermiamoci qua un attimo, Jurpa, fermiamoci un attimo, che volevo far parlare Pierluigi Celli. Ecco, io ho messo una serie di telefonate, abbiamo messo con Fabrizio Intonti, che danno comunque una linea comune. Ma non è che il donabondismo si rivela anche in coloro che pensano di essere inarrivabili manager, preziosissimi collaboratori, portatori di profitto, e che in realtà anche nella mancanza di capacità di sapersi muovere in queste strategie esiste una sorta di orgoglio donabondesco, che poi alla fine si rimane sempre al punto di partenza, sempre sfigati si è. Ma il problema credo che sia proprio di questo tipo: quanto più Don Abbondio ci sono in alto, tanto più Don Abbondio ci saranno in basso, e quindi in realtà il fatto di allevare una generazione di persone che non ha coraggio dipende molto dal fatto che chi sta in alto il coraggio in realtà non lo ha mostrato molto spesso, e tutto sommato l'unico coraggio vero che dimostra è quella nella persistenza, nella durata nel posto in cui è, che va perseguita in tanti modi, ma uno dei modi migliori per perseguirlo è proprio di alimentare sotto questo atteggiamento in qualche modo che ha una forma di rispetto patologico sostanzialmente. Ma in fondo anche Don Abbondio era tranquillo dell'istituzione che lui rappresentava, era un prete, non dimentichiamolo, alla fine in ultimo lui era convinto che essendo un prete alla fine non gli avrebbero fatto più di tanto. La stessa cosa l'alto dirigente Don Abbondio, alle spalle coperte dall'istituzione che in fondo lo salva e lo protegge. Sì, in realtà Don Abbondio al massimo poteva correre il rischio di essere allisciato, nel senso che i bravi gli hanno promesso di dargli una bella sgrullata di botte se non si fosse adeguato. Noi non abbiamo questo rischio con ogni probabilità, ma corriamo il rischio più evidente o di essere marginalizzati o di essere espulsi, che sono le due modalità con cui si governa e si controlla il dissenso o anche il successo, perché poi il successo crea evidentemente quei fenomeni che abbiamo detto di invidia e di gelosia, soprattutto negli interessi familiari o familistici. Non sembri poco, perché essere marginati, essere espulsi, quando uno ormai è abituato a vivere in un sistema di riferimenti, di confronti, di valori, si va all'emarginazione sociale, l'abbandono affettivo, l'irriconoscenza filiale, significa essere dei pari alla società. No, il problema fondamentale è che quando ti succedono cose senza che tu ne abbia responsabilità, e ti succedono in forme anche traumatiche, finisci di perdere una delle caratteristiche fondamentali che danno alla tua identità, il rispetto per te stesso. E quando hai perso il rispetto per te stesso, difficilmente poi trovi le modalità per reagire e per rimetterti in circolazione. Melog 2.0. Figlio mio, stai per finire la tua università. Sei stato bravo. Non ho rimproveri da farti. È per questo che ti parlo con amarezza, pensando a quello che ora ti aspetta. Questo paese, il tuo paese, non è più un posto in cui sia possibile stare con orgoglio. Viviamo in una società divisa, rissosa, fortemente individualista, pronta a svendere i minimi valori di solidarietà e di onestà in cambio di un riconoscimento degli interessi personali, di prebende discutibili, di carriere feroci fatte su meriti inesistenti. A meno che non sia un merito l'affiliazione politica, di clan, familistica. Questo è un paese in cui, se ti va bene, comincerai guadagnando un decimo di un portaborse qualunque, un centesimo di una velina o di un tronista, forse poco più di un millesimo di un grande manager che ha all'attivo disavventure e fallimenti che non pagherà mai. incapperai nei destini gloriosi di chi, avendo fatto magari il taxista, si vede premiato, per ragioni intuibili, con un consiglio di amministrazione. Questo è un paese in cui nessuno sembra destinato a pagare per gli errori fatti. Per questo, col cuore che soffre più che mai, il mio consiglio è che tu, finiti i tuoi studi, prenda la strada dell'estero. Scegli di andare dove ha ancora un valore la lealtà, il rispetto, il riconoscimento del merito e dei risultati. Mi dirai che è tutto vero, che le cose stanno proprio così, e anche a te fanno schifo, ma che tu, proprio per questo, non gliela darai vinta. Preparati comunque a soffrire. Con affetto, tuo padre. Pierluigi Celli, un mese fa, mentre usciva dall'editore questo libro di cui stiamo parlando, Coraggio non abbondio, l'arte di arrendersi e il rischio di resistere in un paese che sta perdendo l'onore, scrisse una lettera aperta a suo figlio, che stava terminando l'università, aveva terminato l'università, in prima pagina su Repubblica, che gli causò gli strali più accesi di tutto, di gran parte del paese, politica, pensatore, via dicendo, perché fu accusato di quasi di istigamento al tradimento, qualcosa del genere. Cosa c'era veramente dietro questa lettera a tuo figlio, Pierluigi? Dunque, chiaramente la lettera è un espediente retorico di tipo provocatorio. Ti hanno segato a sangue, però. Almeno pubblicamente. Pubblicamente alcuni sì, altri no. Poi ho ricevuto anche migliaia e migliaia e migliaia di lettere di solidarietà. Poi ho visto che c'è stato un sondaggio di Pagnoncelli su questa cosa qua, in cui sostanzialmente più del 70% dava ragione a me. Quindi tutto sommato ho sollevato un problema reale. Il problema reale nasceva da questo, da una parte dall'indignazione rispetto a una condizione dei ragazzi. Io vivo in un'università, curo molto il passaggio dall'università al lavoro dei ragazzi, l'indignazione di fronte alla mancanza di politiche generali di sostegno al passaggio al lavoro dei ragazzi. Cioè i ragazzi entrano nel mondo del lavoro senza sapere quasi niente di quello che gli succede e con ogni probabilità preparandosi a anni e anni di precariato. Anni e anni di precariato. E questo, con la prospettiva, se non si non abbondizzano, avranno poche possibilità. Sì, la mia esperienza è che quindi finiscono per collocarsi molto prima i mediocri, perché quelli, tutto sommato, una raccomandazione riescono a trovarla, la raccomandazione di un mediocre non dà fastidio perché non creerà problemi, e quindi il problema è che il mediocre si accaserà per primo. Allora, di fronte a questa cosa, di fronte nati l'indignazione, e cerchi di sollevare il problema anche per evitare che ci sia un'intera generazione che finisce nel buco nero del non lavoro precario a vita o quasi a vita. Sentiamo Alessandro. Alessandro, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi scusi che tanto che aspetta. No, no, non è un problema, sono tranquillo in autostrada. Con la nebbia, quindi ne approfitto per andare un po' più piano. Allora, lei cosa doveva dire? La sindrome aziendale oggi è più da Gattopardo. Sì, perché il Don Abbondio del 600 descritto poi nell'800, nell'evoluzione più o meno darwiniana, ha imparato a mettere gli artigli solamente con o i colleghi o gli inferiori, perché chiaramente il rispetto verso i superiori è assolutamente... Vabbè, questa è la vecchia regola. Il problema è l'ambiente, e secondo me è un problema che riveste e che si rivela anche in questa situazione, chiamiamola di crisi, che per me non è solamente finanziaria, è una crisi veramente imprenditoriale, perché oramai nelle aziende a tutti i livelli, sia nelle aziende piccole che in quelle grandi, si ha paura che qualcosa cambi, probabilmente perché fino adesso tutti sono andati avanti bene e male. Io mi sono sempre occupato di parte commerciale, ero quadro a 32 anni. Ma Alessandro, la paura è qualcosa cambi, ma siccome le circostanze anagrafiche individuali sono inalienabili, la gente invecchia, il pensiero invecchia, la necessità di ricambio è fondamentale. Anche su questo c'è una sorta di speranza di immortalità. Non possiamo creare una società fatta soltanto di mummie e di faraoni mummificati. Sentiamo Lucrezia un attimo. Lucrezia. Sì, buongiorno. Io volevo dire questo. Intanto sottoscrivo al 100% la lettera di Celli, nel senso che io sono una collaboratrice di un giovane politico che ricopre ruoli importanti, diciamo, a livello regionale. È una portaborse, no? Come si dice? Portaborse, no? È sbagliato. No, non sono una portaborse, nel senso che lui ha, io ho 20 anni più di lui, collaboro con lui, e questo lui milita in un grosso partito. Ne cura l'immagine. Centro-sinistra. Ne cura l'immagine. Ne curo l'immagine, ma collaboro anche con lui, non solo per l'immagine. Ma passiamo tre quarti della nostra giornata a difenderci dagli attacchi, dalle gelosie di questi dei politici che ci governano, in sostanza. Non solo, adesso sono, questi Se sono siete all'opposizione, ma che volete? Anche che vi vogliano bene, scusate, mi sembra pretendere troppo. Capisco che siamo una grande famiglia, ma mi sembra una dinamica sana questa, che ce l'abbiano con voi quelli che stanno a governo. No, che ce l'hanno con noi quelli che militano nel nostro partito. Ah, i vostri stessi amici. Ah, beh, anche questa però è una dinamica abbastanza palese, cioè si vede un pochino, sì, quello è vero. No, si vede, questo è un paese secondo me schizofrenico, nel senso che non ci sarà mai un ricambio se non cambia la mentalità, cioè se non cambia la cultura. Cioè vi mangiate in famiglia, questo è il problema. Esatto, ci mangiamo in famiglia e io non riesco a vedere una via di uscita. Ma lei che consigli dà al suo pupillo, diciamo, di essere arrendevole o essere figlio di puttana più degli altri, essere il primo a colpire per uscire vincitore? Il problema è che quando uno ha le capacità e ha la cultura, difficilmente è anche figlio di puttana. Vabbè, questo l'abbiamo capito. E allora che deve fare? Ci deve fare, io non so. E come no, se non lo sa lei che consiglia? La politica italiana, nel senso che se non c'è una... Sì, ma voglio lo specifico, mi scusi, se no andiamo nel vago. Lei dà dei consigli al suo protetto cliente. Di fronte a un suo... O ti fai volpe o lione. È questo, non esiste una terza via. O soccombe, o cerca di fregare, o colpisce alle spalle per primo e distrugge. O sbaglio? Lo so, però non è facile colpire alle spalle quando tu non hai quella cultura. Certo. Sì, allora, allora cultura, perde. Cioè, se tu hai una cultura e comunque sei una persona capace e che ha le idee giuste... difficilmente poi utilizzi quei mezzi schifosi che si utilizzano normalmente. Sentiamo Silvia, chiudiamo con Silvia, un'altra donna. Lei cosa ne dice della sua collega maestra di arti marziali, ma in fondo anche con un animo che non le permetterà mai di metterle in pratica? Ma prima di tutto buongiorno, io ho un'esperienza diversa, aziendale, ho sempre lavorato in aziende internazionali, sono dirigente. Volevo evidenziare solo un aspetto in merito all'invidia. Tra le donne è ancora più forte. E questo mi ha creato molti problemi, ma mi ha sicuramente indurito, e io ritengo che si debba andare avanti per merito, e tutti quelli che ritengo non abbondio sono quelli che non hanno il coraggio di accettare i meriti degli altri e farli andare avanti. Molto amara quello che dice questa nostra ascoltatrice, la sigla ci impedisce di continuare. Pierluigi Celli, se vorrà, quando vorrà, ritornerà qua, visto ci sono tonnellate di telefonate a cui non abbiamo dato ragione. Vedo che anche l'illusione delle quote rosa è una delle tante illusioni che permette a Don Abbondio di sopravvivere e di prosperare in questa società. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.